tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. È l'ultima puntata prima di Natale, ci siamo, è l'ultima diretta per quest'anno perché poi avremo un meglio di per due sabati, ma anche oggi siamo in diretta su Radio 24 fino alle 18. Non abbiamo messo la sigla con i campanellini, vabbè, magari la prossima ora la mettiamo la sigla con i campanellini di Natale perché ce l'abbiamo. Allora, due ore insieme in diretta per incontrare un sacco di ospiti veramente importanti. Per la prima ora di RadioTube e nella seconda abbiamo tutta l'attualità della rete e dalla rete, tanti temi anche molto natalizi, perché insomma so che molti di voi sono in macchina in questo momento o a cercare parcheggio vicino ai negozi o a comprare gli ultimi regali. Io li ho finiti tutti questa settimana perché ho avuto un giorno libero, li ho finiti tutti mercoledì. Allora, vi ho detto, tanti ospiti, io direi di cominciare parlando di cinema, parlandone senza preconcetti, senza pregiudizi, come piace a me, come sono sicura piace anche agli ascoltatori, ma entrerei in atmosfera con una canzone che ci riporta al passato e che ci riporta a dei ricordi bellissimi. Ogni volta che sento Moonlight Shadow penso solo a una cosa, penso solo a Natale, penso solo al cinema a Natale, da bambina a guardare Vacanze di Natale, tanto lo riguardo tutti gli anni come un rito. Ma quest'anno c'è qualcosa di più per festeggiare questo compleanno. Peraltro, Vacanze di Natale, il primo, uscì proprio in questa data, il 23 dicembre 1983. Per festeggiare questo compleanno importantissimo, quest'anno c'è un film al cinema, un film molto coraggioso perché è un film di montaggio. È una cosa difficilissima. Adesso chiediamo come gli è venuta l'idea, ma soprattutto quanto ha lavorato per far diventare un vero film, tra l'altro una vera storia, questo Super Vacanze di Natale, Paolo Ruffini. Ciao Paolo, bentornato alla 24. Grazie, sono molto felice, ma che bel accadde oggi che hai fatto. 23 veramente 23 dicembre 83, vedi? E infatti è una cosa che è molto bella perché anche, insomma, visto che insomma, questo film è stato fatto in occasione di questo grande anniversario che festeggia Filmauro, 35 anni tra poco di grandi successi di film di Natale, e quindi l'idea di questo film in realtà non è mia, è di Luigi De Laurentiis. Ma quando se l'hanno chiesto cosa hai detto? Ho detto subito di sì, in maniera incosciente, non mi rendevo assolutamente conto che insomma è difficoltoso maneggiare materiale mitico ed epico come quello, perché comunque inevitabilmente ti vai a mettere in discussione con tantissimi fan, con, insomma, anche con gli attori, con i registi stessi, quindi insomma tante responsabilità. Io con tanta incoscienza l'ho fatto ed è uscito questo film che, come dicevi tu, in effetti abbiamo preso delle pellicole vecchie per creare una pellicola nuova. Allora, la leggerezza pop del cinepanettone, che non è ancora stata del tutto sdoganata dai critici, accadrà questo come B-movie degli anni 70? Ma no, ma i critici in realtà hanno vinto, purtroppo, ahimè, hanno vinto una battaglia che come una sorta di crociata, dove come se a un certo punto le parolacce le dicessero solo quei film, come se le volgarità fossero circoscritte soltanto alle pellicole natalizie. Anche perché insomma, rivedendo quei film, rivedendo il linguaggio scatenato, la libertà creativa che c'era ai tempi, oggi te la sogni di notte. Cioè oggi la comicità, anche la demenzialità soprattutto, è tornata indietro di 40 anni, insomma non si può più scherzare su questo, non si può più fare quell'altro, non fare battute su questo, non fare battute sui gay, non fare c'è qualcosa che non hai messo perché avevi, perché adesso suona male questo no. Anzi, c'è proprio il film, c'è tutto un capitolo dedicato agli animali e cose che oggi con gli animalisti sarebbero impossibili. Esatto. E c'è tutto un capitolo dedicato a un certo tipo di equivoci anche appunto sull'omosessualità. Però sai, tutte queste cose erano lontane, cioè, e noi eravamo un pubblico molto più leggero, e quindi questi film rappresentano tutta quella leggerezza. E se esiste anche una memoria somatologica, noi inevitabilmente quando sentiamo Moonlight Shadow, come dicevi te, sorridiamo subito. Quando vediamo Boldy che scende da una pista di sci vestito con un pigiama rosso sulle note di Scatman John sul water, sorridiamo. E quindi tutto questo incanto che adesso incredibilmente un pochino rifiutiamo, però nel momento in cui lo si ricorda diventa eccellenza. C'è qualcosa che è invecchiato invece? Perché a volte le cose che fanno ridere invecchiano. Sono avanti anni luce. Cioè, oggi fare un film come Natale sul Nilo è impossibile. Cioè, veramente il livello della... Cioè, se io faccio ora una battuta su questo microfono, domani arriva l'associazione Microfoni Italiani e mi denuncia, capito? Quindi tu... Domani ti denuncia, ma oggi già sui social. Già sui social, Ruffino. Poi diventa che io... se io dico che questo microfono non andava tanto bene, Ruffini, shock! A Radio 24 ce l'ha coi microfoni italiani di un'azienda, cioè, capito? È questa cosa qua che è diventata veramente complessa, e che non so se in realtà io ne parlo sempre perché contamina il mio mestiere o se davvero è così diffusa. Fatto sta che questi film, soprattutto in questa operazione che abbiamo fatto, e che insomma ovviamente c'è stata anche una discussione su questo, ma io non ho nessun tipo di arroganza artistica, è una nomenclatura che vuole che io firmi la regia, ma ovviamente ho fatto un montaggio. Hai lavorato insieme a montatore. Perché, Pietro Morana, lo ricordo sempre, che è colui che insomma nel momento in cui ha visto le ore che abbiamo passato sull'Avid, che è il programma di montaggio, c'era scritto 1163. Urca! Quindi 34 settimane di lavoro per 8 mesi. E la cosa particolare, come giustamente rilevavi te, è che questa cosa è un film vero e proprio. Sai cosa c'è tanto anche... nei cinepanettoni, in tanta commedia italiana e all'italiana, c'è tanta Italia, stagioni, certo, politiche, stagioni del consumo, i telefonini enormi, certo, la vacanza come status symbol. Certo, certo, certo, perché c'era un momento in cui il cinema italiano non aveva mire estere, ma questa esterofilia era confinata dal fatto che in Italia noi si andava al cinema, e quindi era un'occasione sociale. Cioè, il cinepanettone era un momento liturgico come il pranzo di Natale, la messa di mezzanotte, quindi noi si andava tutti al cinema e ci conveniva produrre per l'Italia. E evidentemente questi film, senza volerle, senza pretese politiche, hanno però determinato anche trasversalmente quello che è stato il costume e il folklore del nostro paese. Quindi vuoi un certo tipo di craxismo, vuoi un'era berlusconiana, Tangentopoli, vuoi il velinismo, insomma, hanno attraversato tutto, la mania dei paparazzi. C'era proprio un film che si chiamava Paparazzi, capito? Era molto divertente, paparazzi. Era molto divertente. E già ti dico, rivedendo Mostri Sacri, Aldo Biscardi, Maurizio Mosca, cioè sono film che hanno determinato un pochino il nostro costume e il nostro sociale, e ti dico, sono sicuramente film che hanno reso la mia infanzia e la mia adolescenza molto più felice. Io ho sentito che hai dichiarato che qualche polemica che ha accompagnato il film, insomma, hai detto: io da certi Mostri Sacri prendo anche degli schiaffoni. Sì, ma ci sei un po' rimasto male del fatto che sia Boldi che De Sica abbiano avuto qualcosa da ridire? Non ci sono rimasto male, ma ci sono stato male, nel senso che non è una delusione, è più un fatto che mi dispiace che loro non abbiano visto il film. Questo sì, perché sai, è un pochino quando te ti ispiri a loro per me sono veramente dei miti. E insomma, io ho l'autografo di Christian De Sica e Massimo Boldi conservato di quando avevo 16 anni, e sapere che adesso ho l'opportunità di fare una celebrazione, perché di questo si parla, della loro... Se vuoi riflettere dopo lirico, ti faccio riflettere anche su questa parola, però della loro artisticità, perché per me di questo si tratta. Sapere che non riescono a vedere questo film, che comunque hanno un'amarezza di fondo, mi dispiace tanto. Ultima domanda, Paolo: cosa hai imparato quando hai chiuso il montaggio e hai detto: io ho imparato questo? Ho imparato che per fare gli scemi bisogna essere delle persone molto serie, perché c'è un rigore, una disciplina, una severità dietro le cazzate che la gente neanche si immagina. E quando tu vedi che, e li voglio citare, questi grandi registi che hanno reso la commedia davvero grande, come Carlo Vanzina, Neri Parente, Enrico Olduini e Wolfgang De Biasi, capisci che dietro c'è davvero... Loro si ritengono sempre artigiani, ma io voglio usare invece la parola artisti, perché è così. Perché a un certo punto, è quello che secondo me è anche la miopia di un certo tipo di critica, non si è reso conto che questi non erano film pop, erano film hard pop. come c'è il rock e l'hard rock, questi sono film che hanno superato il pop e che diventano qualcosa che non ha assolutamente a che vedere niente con la volgarità che invece oggi pervade i nostri social e le nostre conversazioni e le nostre giornate. Cioè, se il mondo fosse come nei film di Natale, sarebbe un mondo molto più bello, molto più divertente, molto più leggero, dove alla fine incredibilmente vincono i valori, quei valori familiari che poi noi tutti vogliamo vedere al cinema. Grazie a Paolo Ruffini, appuntamento allora al cinema. Grazie Paolo. Assolutamente, viva, viva, viva. Radio Tube Social Village. Adesso parliamo di televisione, di un programma che è cominciato 4-4 quasi in sordina, che sta andando molto bene. Io ho visto la prima puntata e sono rimasta conquistata e quindi me le sto guardando tutte. Vabbè, un piccolissimo assaggio ed entriamo in atmosfera. Perché paghiamo le tasse? Certo, per avere dei servizi, ma molto spesso ci lamentiamo, addirittura pensiamo di essere più bravi di chi ci amministra. E allora che cosa succederebbe se da un momento all'altro le istituzioni sparissero? Saremmo capaci di autoamministrarci? Saremmo più bravi dei nostri politici? Saremmo più capaci dei nostri amministratori? Da ora in Italia questa è l'unica strada senza tasse. Allora, La strada senza tasse è un docu-reality di Rai 3 che va in onda poco dopo le 20 la sera, condotto, vabbè, da un conduttore, io sono un po' di parte, a me lui piace tanto, vabbè, lo sapete, l'ho detto più volte, quindi lui è veramente bravo, l'idea è curiosissima, avete sentito, una strada che per un certo periodo non paga le tasse, si autogestisce, perché noi diciamo sempre, noi sappiamo fare meglio tutto, soprattutto dell'amministrazione pubblica. Ma com'è andata questa avventura e soprattutto chissà se è stupito di questi risultati d'ascolto, perché 2 milioni, picchi dell'8%, sta andando proprio bene. Io sono molto contenta di collegarmi con Flavio Insinna. Ciao Flavio! Ciao, ciao! Bentornato! Ciao a tutti, auguri, grazie! Oh, buon Natale, buon Natale! Portiamoci un po' avanti con i lavori degli auguri. Ci siamo quasi, Soprattutto l'anno nuovo, perché sai, Natale è un giorno, insomma, la vigilia, per carità, è serata magica, insomma, sia per chi crede, per chi non crede, però insomma 24 dici che poi l'anno che ci aspetta, insomma, speriamo sia più morbido, no? La vedo dura, diciamo, però insomma la speranza è un sentimento testardo, quindi noi dobbiamo sperare. Io sono pazza delle citazioni di Flavio Insinna, con lui non è possibile parlare senza che non ti tiri fuori queste perline. Ma è così, avendo avuto tante ore a casa da ragazzo e c'erano i libri, non c'era l'iPad, quindi o te mangiavi quella minestra, per fortuna quella dei libri, oppure niente, non è che insomma lo sport e i libri. Ma va bene, insomma, adesso voglio dire, non volevo dire niente di clamoroso, era perché insomma è un paese continuo, insomma, mentre sto anche lavorando uno butta un occhio appunto ai giornali e alle notizie e dici mamma mia. Ecco. Senti, però questa cosa che noi italiani ci sentiamo sempre più bravi, cioè quando guardiamo il calcio siamo allenatori più bravi. Ma hai letto nel pensiero, grazie, è quello, questo programma un po' fa scattare, ci costringe un po' a rivedere la nostra posizione di quando davanti al televisore sapremmo chi far entrare, chi sostituire, come tirare il calcio di rigore, spostato nella, come dicevi prima tu, nell'amministrazione pubblica. Beh, quando siamo lì, io ho degli amici, guarda, te lo posso dire, ne parlavo ieri sera, secondo me sono convinti che, fossero eletti sindaco onorevole, qualcosa, in 10 giorni sistemerebbero tutto. A me fanno un'infinita tenerezza, insomma, ci rido, li ascolto, ma sai quelle cose, ma non solo da bar, ormai a cena, dovunque, o in rete, e tutti pensano di avere la bacchetta magica. In questo programma, cioè, io spero soprattutto una cosa, e tutto ringraziare perché non ci aspettavamo questa accoglienza, se tutti quanti, ma io per primo, perché mentre ero lì capivo, vedevo gli sbagli, scopri che tante cose, tantissime, non le sai. Io spero che sia alla fine di questa avventura, magari qualcuno la prossima volta davanti al televisore, in un'altra occasione, non dica subito, qua io farei così, e diventiamo, come dire, dei cittadini un po' più avvertiti, come dire, non solo informati, ma anche più consapevoli del fatto che è veramente difficile autogovernarsi e quindi anche governare. Flavio, hai detto che non te l'aspettavi questo successo, perché sta andando proprio bene. Sì, però a parte che insomma io non me l'aspetto mai così, se va bene è sempre un regalo, appunto è sempre Natale, se non dai niente per scontato è sempre festa, se tu dici ah ma sì certo è chiaro che e quanto siamo bravi non ti godi niente, poi soprattutto quando dai la musata perché ti svegli, ormai siamo prigionieri dei numeri, cioè lo sai meglio di me, sì. Che sia anche radio, che sia televisione, che sia cinema, teatro, la prima domanda non era bello, quanta gente c'era, quanti biglietti ha venduto, hanno scaricato, i podcast hanno fatto, è tutto, dice ma era bello, quello viene dopo. Noi sicuramente, guarda, io non so sviolinate così, ma tutta la produzione a partire da Simone Ercolani, la rete, Rai 3 e gli autori, tutta la squadra, la regia, perché 10 famiglie, sembra così, ma e loro continuavano la loro vita normale, cioè andare al lavoro, la scuola, lo sport, il pomeriggio, il dopo scuola. Quindi rincorrili tutti con le troupe, non è che gli potevi dire aspetta, no. E quelli escono alle 6 di mattina e dovevano essere là, c'erano squadre di montatori, di regia, di autori, di appunto anche videomaker, di squadre pronti a riprendere, fonica. Cioè voi vedete, giustamente, uno vede il programma, per essere lì ad ascoltare la signora Nella che disserta col professore o la famiglia Campione o la famiglia Pisano, ci sono squadre che li rincorrono. Soprattutto le sì. Beh, però, oddio, in salita anche quella, cioè le salite di discese ci sono anche a Eboli. Però. No, ci sono le salite, ce ne sono tantissime, hai ragione, manca il tram di San Francisco, ma... Le salite ci stanno, hai ragione. Quindi è stato un grandissimo sforzo. Guarda, adesso così è Natale, facciamoci un regalo, lo faccio a tutte le squadre che hanno fatto il programma. L'altra mattina mi ha chiamato il nostro direttore meraviglioso di Rai 3, Stefano Coletta, mi ha detto Flavio, dice tu sei più pratico di Rai 1, non tanto di Rai 3, ti dico che i risultati sarebbe come fare più del 20%, 25-26% a quell'ora su Rai 1. Che cioè, voglio dire, capisco che da casa uno dice ma che stanno a D. Però beh, guarda che sono preparati, ormai sui dati d'ascolto guarda sì. Che gli italiani sono preparati, sono... Sì. Io ho capito che stava cambiando qualcosa quando ho visto mia mamma sul televideo che controllava la borsa, ho detto mamma mi nascondi qualcosa? Hai investito? Poi... Ma no, che però controlla, non so che cosa, non me l'ha voluto dire, anni fa, quindi ormai hai ragione, lo share, sì. Le percentuali, ormai è materia di tutti, ma hai ragione, gli amici dicono, oh Fla, avete fatto di più, avete fatto di meno, sicuramente, ripeto, continuiamo a ringraziare perché non ce l'aspettavamo, perché sai, è un esperimento, va bene, sociale, tutti ci si possono rivedere. Ma che ne sai, ti presenti la prima sera e dici la strada senza tasse, che poi guarda, la cosa io bella, ti ho beccato per caso, te lo confesso, ti ho beccato per caso, sono rimasta lì, ho detto ah vedi, lo guardo anche domani, tra parentesi fino al 29 poi prima serata. Diciamolo in punta di lingua, dai, vediamo, okay. Insomma speriamo, ho detto io. Anche perché sai, da lunedì Torroni, Pandori e il 25 e il 26 ci guarderanno, scattano le tombole, 7:30, canasta, giochi di società, magari accenderanno, speriamo, su Rai 3 per continuare a guardare La strada senza tasse. Però ti dico, perché poi c'è una cosa, uno vede il titolo e dice ma che in realtà sì, gli vengono restituiti i soldi delle tasse comunali, ma non è che diventa quella strada del Far West, un film con John Wayne, le leggi sono quelle, le regole sono quelle, all'inizio hanno fatto una serie di sbagli che avremmo fatto tutti. Io sono stato costretto a comunicargli quanto sarebbero state le multe, le ammende, era roba che arrivava a 30.000 euro. Perché certo. Uno dice come la smaltiamo tutta l'immondizia differenziando correttamente, come la trasportiamo? Noi dici carichiamo tutto in macchina, non si può. Flavio, adesso noi dobbiamo sapere come andrà a finire, però lo guardiamo poco a poco tutte le sere, anche perché poi alla fine dovremo fare una riflessione e capire se siamo più bravi degli amministratori locali oppure no. Lo scopriremo alla fine. Flavio, grazie davvero tanto per essere stato con noi, ti auguro un buon Natale, ti auguro buon anno pieno grazie, di tutte le cose anno. Belle che ti meriti. Un abbraccio grande. Buon anno, grazie, buon lavoro, grazie davvero. A te, grazie. Ciao, Flavio, un bacio grande, grandissimo. Noi adesso partiamo per qualche minuto perché è il momento di viaggiare, grazie. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Si narra che un tempo i pirati saraceni riuscirono a prendere d'assedio Salerno. Decisi a depredarne i tesori, raggiunsero subito l'ingresso del Duomo. A quel punto i due leoni di pietra, simbolo di forza e carità, presero vita e misero in fuga i pirati. Il miracolo fu attribuito a San Matteo, patrono e salvatore della città. E come sempre a quest'ora è il momento di partire insieme ad Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita, dove ci porti questo sabato? Andiamo dalle mie parti, andiamo a Salerno, che in questi giorni è più bella del solito per la straordinaria iniziativa delle luci d'artista. Noi abbiamo un ospite, Marta, come sempre consigliamo di andare a visitare Salerno in questi giorni e non solo, ma in questi giorni in maniera particolare. Prima dovete però scaricare e ascoltare con attenzione i suggerimenti della nostra radioguida di Radio 24 e del Touring Club. Ne parliamo e lo ringraziamo con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Salve. Buonasera. Buonasera. Sindaco, allora, miti marini, creature, profumi, colori del Mediterraneo, insomma, fino al 21 gennaio un paese incantato, una città incantata, lo possiamo dire? Credo proprio di sì, lei ha fatto una sintesi mirabile tra sole, luce, sapori, odori, profumi. È proprio così, Salerno in questi giorni si è messa in bell'abito e si predispone ad accogliere migliaia e migliaia di visitatori. Sappia che l'anno scorso noi abbiamo avuto punte di 1,5 milioni di visitatori nell'arco della Kermesse. E quest'anno pare che stiamo tranquillamente bissando. Sindaco, mi sono incuriosita perché sono andata a cercare un po' la storia di Luci d'Artista, che nasce dalla collaborazione con Torino. Però possiamo poi dirlo a bassa voce, oramai Salerno è un po' diventata la capitale delle luci d'artista. diciamo a bassissima voce. Lo dice lei, io non posso che essere d'accordo, ma di fatto è così. Un mio amico, un architetto che si è recato a Torino in visita, mi ha detto che qui siamo avanti, senza voler offendere nessuno naturalmente, ma la nostra struttura ideata da Enzo De Luca quando era sindaco di Salerno credo che possa cominciare a dare punti un po' dappertutto. E questa edizione di quest'anno è particolarmente ricca. Vogliamo ricordare in vari punti della città, c'è cioè la Villa Comunale, una foresta, Piazza Sant'Agostino, ci sono le atmosfere del Mediterraneo, insomma un po' dappertutto, no? Sì, la Villa Comunale, diciamo, un po' dedicata ai bambini, piena di animali fantastici, ci sono delle sculture di luce anche di 6 metri e un'immagine fantasmagorica molto avvincente, diciamo anche i meno piccini restano fantasticamente entusiasmati da tutto questo. Poi si va in piazza Flavio Gioia, ex piazza della Rotonda, un ex mercato, che invece ospita un'immagine di un mare con Nettuno e varie creature delle acque, e anche lì si è sotto il mare, insomma, no? Si ha questa idea di essere sotto il mare, e anche quella è un'immagine formidabile, bellissima. Poi abbiamo il nostro albero di Natale che svetta quest'anno 3 metri più dell'anno scorso, insomma mi pare una cosa assolutamente piacevole e bella da vedere, entusiasmante e nello stesso tempo emozionante. Ho letto che c'è anche una ruota panoramica. Sì, sì. Ah, che meraviglia, mi piacciono tanto queste cose. Poi chissà che meraviglia di panorama si può vedere dalla ruota panoramica. Sì, la ruota panoramica è posizionata nel porto turistico della città. E poi ci sono le iniziative di Capodanno, insomma sono giorni particolari. Noi abbiamo arricchito la Kermesse quest'anno con una serie di episodi che è sbagliato definire collaterali, ma diciamo usiamo una parola per comodità, cioè spettacoli teatrali, spettacoli di jazz, musica classica nei vari posti, nei vari luoghi cospicui della città, e insomma si viene a Salerno, non ci si annoia. Certo, e poi ci sono anche i dintorni che sono meravigliosi. Marta, ma tu sei mai stata a Salerno? Ma certo, conosco molto, ti stupirò, ma conosco molto bene Salerno. C'è un lungomare bellissimo, bellissima. Grazie sindaco, grazie anche per questa bellissima iniziativa. Vi aspetto a Salerno. Tanti auguri, grazie, arrivederci. Grazie al sindaco. Anna Rita, tanti auguri, buon Natale, tanto auguri. Noi ci ritroviamo anche la prossima settimana. Auguri, e poi la prossima settimana ci facciamo quelli di un sereno 2018. Adesso a tutti gli auguri di buon Natale. RadioTube Social Village. Io ve l'ho detto che è una puntata ricchissima di ospiti. Sorridiamo? Sì, sorridiamo con questa bellissima scena di un annetto fa in TV, ma così torniamo indietro per raccontare qualcosa di nuovo che sta per arrivare, anzi per tornare. Lei è il conduttore? Diciamo che sono un ballerino. Ah, lo diciamo, ci arrischiamo. Mi perdoni, il suo nome? Roberto Bolle. Ah, Bolle Roberto, Bolle. È sicuro, lei si chiama Bolle? Sì. E balla? Sì. Un calambur? No, voglio dire,

una trasgressione? Cioè, poi sì. Ma ogni tanto Roberto Bolle trasgredisce. Trasgredisco. Oh. Allora, sì. A Natale poi specialmente, anche perché non si può con le feste, non si può non trasgredire, i pranzi in famiglia. Due giorni, quindi il 25 e il 26 sarò a casa, con il panettone ci sarà sicuramente, cioccolata, pasta, cose che di solito appunto non mangio, ma mangerò in questa occasione, assolutamente sì. Quindi quando io le mangerò penserò tanto lo mangio tanto anche Roberto, le mangia anche lui. Sì, vabbè, però poi nei giorni successivi insomma poi sarà dal 27 tutto... Sai che io sui social mi definisco da tantissimi anni ballerina alla radio, perché come ballo io alla radio, guarda, nessuno siamo mai. Colleghi, solo che io lo faccio alla radio. Fantastico. Roberto, allora l'appuntamento il 1° di gennaio, quindi danziamo con te, sì. È una cosa non da poco, è una meraviglia, perché è bello il tuo entusiasmo e la tua voglia di condividere il tuo mondo, di farci entrare, di prenderci per mano, no? Come fanno i ballerini, sì. Oddio, io col tutù non ho idea, però di prenderci per mano, di portarci a vedere questo mondo, di entrare. Cerco, è una cosa che cerco di farlo anche attraverso il social, che comunque attraverso Instagram, Twitter, Facebook, cioè che appunto curo anche personalmente, proprio perché è una finestra un po' sul mio mondo. Sai, capisco di essere parte di un mondo magico, bellissimo, quindi ho questo grande privilegio ed è bello comunque condividere. A volte sono in teatro e dico, caspita, è veramente di una bellezza straordinaria, devo fare una foto e farla vedere, condividere questa bellezza, e quindi viene naturale, viene spontaneo, perché non si può non condividere tale bellezza, e questo è poi il pensiero che c'è dietro a questo allargamento proprio della danza e condivisione con tutti. Che meraviglia, la bellezza, la grazia, la forza, l'impegno, tutto insieme, una bellissima cosa da insegnare davvero ai ragazzi, sono d'accordo. Grazie, a presto e buone feste a Roberto Bolle. Buone feste anche a voi, a tutti gli ascoltatori, grazie mille. RadioTube Social Village. Siamo a un passo dal Natale e io ho letto una favola bellissima che parla di una storia d'amore molto particolare e sono molto contenta di avere accanto a me in studio non solo l'autrice di questa storia, ma anche un'amica vera, una persona straordinaria. Bentornata Catena Fiorello. Ciao, ma Catena. Grazie, che ma bello che calore, ma qui. Che... Vabbè, allora canto solo per te. Na na na na na na na na na na. Ah, vedi, abbiamo anche il sottofondo natalizio. Certo. Un amore tra le stelle. Come ti è venuta in mente di scrivere questa favola di Natale? Io sono impazzita e mi sembrava perfetta per chiudere questa stagione. Come è venuto in mente? Com'è che non mi era venuto in mente fino a questo momento? Perché abbiamo lasciato questi due personaggi sempre da soli. Lei se ne va in giro la notte del 6 gennaio, poi non sappiamo il resto dell'anno che cosa faccia. Quindi parliamo della Befana. La Befana. E poi lui, anche lui, sempre da solo, così, così troppo single, sempre in giro sulla slitta, ma da solo, ma non va bene, ma mettiamoli insieme. Babbo Natale, detto Bobby anche, ecco, a volte. Sì, però mettiamoli insieme, ma non necessariamente perché ne venga fuori un fidanzamento, perché attenzione, spesso abbiamo l'abitudine di immaginare, beh, se mettiamo insieme Babbo e la Befana nasce una love story, ma come farò dire poi alla Befana nella fiaba, alla fine la forma più bella, intensa, importante e sublime del sentimento dell'amore è proprio l'amicizia, e quindi io li metterò insieme, vivranno questa storia. Poi toccherà ai lettori decidere se d'amore o d'amicizia, che per me è più o meno la stessa cosa. Beh, una esclude forse, diciamo, quella che è la parte fisica, perché nell'amicizia manca, però non vuol dire niente. Cioè loro si vorranno, da quel momento, dal 23 dicembre sera, che ci sarà questo scontro, non incontro, scontro per strada, perché lei taglia proprio la strada, il passo a Babbo Natale. Lui dice: oh, ma che vuoi, spostati da qui, perché è una figura che lui non riesce a definire bene. Dice: ma che è una mummia, non si capisce, tutta coperta di stracci, poteva essere un uomo o una donna. Lo capirà solo dopo, quando cadono per terra tutti e due per colpa di una moto che, sfrecciando appunto, li fa cadere. Lui riconosce Befana, lei riconosce Babbo, e da quel momento, visto che una tormenta di neve li bloccherà, perché poi vanno a casa per curarsi le ferite, e da lì, Marta, succede di tutto. Non sveliamo troppo, però. Quindi occhio, questa sera, il 23 dicembre, possono succedere queste cose magiche. Una favola che tu hai scritto per chi? Per i bambini, per i grandi? A parte Edoardo, a cui l'hai dedicata. Beh, sì, che è un bambino che cerca la Befana continuamente. Edoardo c'è davvero, questo bambino vive a Carrara, ha 4 anni, fantastico, è venuto alla presentazione, mi ha fatto proprio, guarda... lui era, perché c'era la Befana, no? Proprio in carne e ossa, avevo portato proprio 2 attori per rimasto così. È dedicata, è per tutti, è per adulti ed è per bambini, perché poi sai, adulti, ci chiamiamo adulti, ma dentro ci sono talmente tante emozioni nella nostra vita che, ma quando mai andranno via i sentimenti anche di bambino che ognuno ha dentro? Perché allora non ti capita, Marta, e ti capita, sì, io ti seguo su Instagram, sono una tua fan prima della diretta, ti amo io su Instagram proprio, sei una regina. Io ti prima sei... della diretta ho estorto questa promessa catena, Fiorello, che userà di più Instagram di più. Però volevo dire, ti capitano, no, quelle cose che io lo vedo anche quando fai le foto, ti sorprendi, e quella è la tua parte di bambina, vero, che non andrà mai via. Quindi come si fa a stabilire quando una fiaba è per adulti o per bambini? È una fiaba per adulti che va bene ai bambini, ecco. Io già lo vedo come un film. L'ultima volta ci eravamo incontrate auspicando che qualche tuo libro potesse diventare un film. E io lavoro, allora su PC Rida stanno lavorando, e so che sono, sai, ci vogliono tanti soldi e tanto tempo per realizzare i film, ma io non ho mai, come dire, perso le speranze, nemmeno per L'amore a due passi. Ma vedi che dopo l'uscita del mio romanzo quanti hanno scritto di amore in tarda età? Allora, sono usciti poi, sono in libreria, abbiamo visto, no? Libri su questo tema e film anche importanti. Le nostre anime di notte. Ma per esempio, Kentaro, dopo un anno, credo, dal, no? È stato più o meno il... E così anche ne ha parlato Virzì nel suo ultimo film. Cioè, quel tema è stato tanto sviluppato, perché secondo me, non fermiamoci sempre alla solita storia, l'amore tra i quindicenni, i diciottenni, i ventenni, i trentenni, ok, parliamo anche di altri amori che sono importanti, hanno qualcosa da dire. E su questo libro di Babbo e Befana, sì, un film ti immagini come belli, perché poi io non immagino la Befana vecchia e brutta, l'ho già detto, quindi dovrebbe essere un'attrice che è intensa, particolare, quindi dovrebbe essere proprio un'attrice, anzi con fascino, quindi la immagino proprio bella in una maniera però non convenzionale, non bambolona, la immagino proprio bella, intensa. E lui, lui per esempio, tipo chi potrebbe essere? Un Nino Frassica mi viene in mente. Bello, Nino Frassica, Babbo Natale, poi l'hai appena incontrato, l'ho incontrato settimana, sì, che tempo, esatto, che fa. E lì ho visto, ho detto, ma guarda un po' che Babbo Natale perfetto sarebbe Frassica. Già la vedo benissimo. Chi ci vedi come donna? Fammici pensare. Ma... una donna particolare che ha uno sguardo magnetico, che proprio ti affascina subito. Sai che io sceglierei una donna della tua terra, io sceglierei una Finocchiaro. Che bella femmina. Cioè non una bambola, una donna bella, forte. Sai che mi hai fatto venire? Oddio, i versi di Femmina, te li posso dedicare? Questi versi che sono nel romanzo Piccirita, me li hai fatto venire adesso col titolo, vedi, Femmina. E dice: d'un vinci de una femmina nasci, femmina puro io e minne vanto. Femmina come la Madonna, femmina come la terra. E femmina volesse rinascere ancora, se mai mi fosse concesso di scegliere per la seconda volta. A tia, masculo, che ti fai chiamare uomo, na sola preghiera. Prima che pigli un cutello o mi tiro un cazzotto, ricorditi che pure tu fusti cresciuto per 9 mesi in ciastu corpo. E s'ammazza mia, è come se tradisci lo tuo stesso sangue. Che meraviglia, che meraviglia. Catena, ti chiedo solo un ricordo a te caro del Natale. Qual è la cosa a cui sei più affezionata dei tuoi Natali? Il ricordo che abbiamo avuto un papà che ci ha amato immensamente, e quindi quando la famiglia era al completo. Perché penso che in tutte le case dove, famiglie o case, dove manca qualcuno, il Natale è sempre un po' azzoppato. Sì, c'è sempre quella sedia che vorresti che venisse riempita. Assolutamente, quindi lo so bene. Come la Befana ho fatto anch'io, perché la Befana dice: quando ero bambina, e racconta a babbo che cosa è accaduto, ecco, quando ero bambina la sedia era colma di mio padre, di quella presenza importante. Lo so bene. Io posso ricordarvi questo Un amore tra le stelle, ma soprattutto la bellezza, la forza. Ma io sono un po' di parte perché le voglio tanto bene. Grazie, Catena Fiorello. E grazie a te da oggi, e vai di storie su Instagram. Storie su Instagram. Posso fare un augurio di Natale anche alla mamma Sara, che sì, alla quale voglio tanto bene. Grazie. Catena, presto. Che ascolta Radio 24, lo sai, con le cuffiette anche di notte. Anche di notte ormai proprio lei, proprio Radio 24 al loop continua, e quindi tanti auguri anche a Radio 24. Anche quest'anno è tornato Natale, nel panettone motto originale ci sei anche tu, nasconditi dietro l'uvetta, candito. Allora ragazzi, questa è una canzone pubblicitaria che sta facendo sensazione in rete, il famoso candito Natale, insomma. Tutti quei degeneri che prendono il panettone e tolgono i canditi, ma il candito è il bello del panettone, ve lo assicuro, bisogna solo un po' abituarsi, perché il candito è il bello del panettone. Ma perché una canzone pubblicitaria? Perché parleremo, tra l'altro, nella prossima ora, di quanti ricordi abbiamo appena sentiamo le vecchie pubblicità in rete. Ce ne sono tantissime, ne parleremo più tardi. Ora il giornale radio e poi ancora RadioTube.